La ilaha illa huwa, subhanallahi ma a'azama. Non c'è divinità tranne Allah, sia glorificato Allah per ciò a cui ha annesso importanza. Allahu la ilaha illa hu, subhanallahi ma ahlam. Non c'è divinità tranne Allah, sia glorificato Allah per ciò che ha reso moderato. Allahu la ilaha illa hu, subhanallahi ma akram. Non c'è divinità tranne Allah, sia glorificato Allah per ciò che ha nobilitato. Allahu la ilaha illa huwa, subhanallahi wahda, la sharika lah, Muhammadun rasulullahi haqqa. Non c'è divinità tranne Allah, sia glorificato Allah unico, senza compartecipi nella sua qualità divina, e Muhammad è realmente apostolo di Allah.